andiamo. Ah, è cavallo. Ui, Gianmarì. Ma che Gianmaria, Gianmaria. Ui, Bobui. E allora? Passa se vuoi passare la resa per quella roba. Adesso sono a casa. E allora tu mi ammazzano, dai. E lì, da Valieri mi hanno mai chiamato. Ma era in macchina, quando hanno fatto la Gabri. Sì, andava, no, io sono andato alla giantiera a fare un giro, mi sono venuto da là, adesso. Aspetta, vorrei cosa è successo. Cos'è? Gabriele, aiuti, sai cosa ha combinato? È di danno. Falso allarme. Per ordine. Sì. Aiuti a Mose, adesso che si è incazzato anche il logo. Scappa, adesso mamma che non li accendo, bene va questo apparato. E anzi una bomboletta, sì. Quanto è insegnata, a fondo scala? Sì, già lo sai che io ho l'antenna nel balcone, antenna di macchina. Vabbè. Ma in chi già arrivo bene, non ti preoccupare. Che cazzo, se vado in bacio, se non arrivi per tu. Cazzo. Scappa. Mamma mia, cazzo. Sai come otto sono, mamma. Rimango una bella vista e la buca nanna. Oggi sono delle pose, domani sono alle 2:30. Dove? Perché malacca, perché malacca. Avete protestato per aumentarvi la tariffa? Sì, adesso a metà mese li suono le orecchie a qualcuno. Li suono le orecchie, se così, se no, quella è una porta, hai visto. Beh, io te lo posso trovare, ma almeno, cioè, 5 non se ne parla, almeno 8, a 8 euro l'ora me li puoi dare. Almeno a 7 euro ti devono dare, per essere regolare. 8 euro ti danno quelli uguali al massimo. A me ditti, mi dà 10 euro l'ora per lavorare. Ma un altro tipo di lavoro, è tutto diverso. Ah, quelli che fanno, tipo come lo faceva quel morto di fame, là, che ti hai compreso, cazzo, se tu ti senti. Ah, se perché non ci vai a dirglielo, cavolo, che fanno anche antincendio, che ti brevetti tu. Mi pare che dateni 120, 150 euro per il servizio. Lo so, adesso ho già parlato. Adesso quando finisco lì devo andarci, ci ho già parlato. No, li pagano bene. Lo conosco, minimo 10 anni a lui. No, paghendi qua è una banca. Te lo posso assicurare veramente una banca pagando. No. Non è come tutti quanti altri, non muoce di fame. No, già lo conosco bene. Adesso quando finisco il contratto, ci hanno rinnovato fino a ottobre, adesso vediamo. Se paga è bene, se no se la faccio a ficcare tutta quanta di dietro. Non va con i ragazzini qua. Cioè, non va con le persone. Cioè, ma anche la gente però non dovrebbe accettare. Io mi gioco il ciuffato di andare a lavorare gratis, no, non se ne parla. Poi a me ho 100 euro al giorno, faccio col service. E c'ha ragione, lo so, bisogna aumentare perché la vita è cara, con 5 euro non neanche un pane di imbottito ti prendi. Ma cazzo ti credi che c'ha niente, ecco, ma 5 euro, ma 5 euro non se ne parla. No, e cosa fai? C'è 5 euro ora, cosa cazzo fai? Non fa proprio nulla, proprio niente. Poi tu che facciamo noi ci dovrebbe dare, almeno quando facciamo la notte, almeno 100 euro a notte, e anche poco. 100 euro a notte è qualcosa, in 10 giorni di lavoro sono 1000 euro. Appunto, invece no, ti si dà giornaliero 5 euro, notte 5 euro, ma tu venati da far culo. No, ma sono da scazzare, sono da mandare a cagare, sono. Sono da mandare a cagare questa gente. Sì, già lo sistemo io bene bene, non ti preoccupare. Già lo sistemo bene bene, che le faccio sentire nelle orecchie. Beh, certo. Ma pure... cioè, come ti si dice? Quasi più lavorando quasi nessuno, così quasi più nessuno, a chi piglia il travaglio a bruciatura a basso costo, e poi quelli che ci rimettono gli operai, no, paga l'operai pure, arrivi canto goccia all'uomo, goccia addosso, pagalo. No, devono pagare sì, poi i contratti si fanno contratti caso di imprese di pulizia, ma profondamente diciamo, aspetta che quando siamo al momento glielo dico io, chi è anche il commercialista, che anche al commercialista gli faccio un buco del culo, più grande di lui glielo faccio il buco del culo. Chito, poco colpa ne ha. No, la colpa ce l'ha anche lui, perché le buste paga lo fa lui. Adesso non va più bene, cioè prendere 1.200 no, già è fuori dal normale. Cioè, bisogna prendere almeno 1.500, uno stipendio normale è 1.500. E quei lavori che facciamo noi almeno 1.350 devi prendere, considerato. Poi quelli guardi al mate prendono quelli dai 1.400 ai 1.500, quelli guardi al mate. Sì, no, non è così, no. Io te la notte me l'ha pagata di più, la notte. La notte, almeno per la notte, devo, cioè, 1.500 ho portierato, 2.000 almeno guarda armata. E tu già fatto ricontimare, già fatto. Sì, già rimasto armato, ma che già si appaccia. Arriva là la presa dei conti dopo. Sì. Ma tutta la gente si dovrebbe rifiutare. Ma anche se sono una massa di cagone, se cazzo rifiutare. Ma che se mi dai 2 euro si caga nel burro. Ma non funziona più così. Bisogna un pochettino farci valere. No, tu a me mi dai 100, cioè, a notte, no, così. Se la notte si può passare, che da voi vi piace la salute, non tu male che ti venga. Può passare da sì. E la voi per freddo pura va, e mette una chicchiata un freddo. Già lo so, Giulia. Ma buon altro, dai, già ci sentiamo. No, ci vediamo domani, dai, per quella roba lì, ok? Ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao.